Siamo pronte e pronti per una fantastica talk del progetto Turbe. Chiamo al microfono il nostro presidente che può introdurre la questione. Grazie, 17. Ma sì, adesso per chi ha voglia facciamo una chiacchieratina raccontando cos'è Turbe per chi non la conosce, raccontando cos'è anche Exalge per chi non la conosce, insomma raccontiamo un po' questo mix di realtà e soprattutto la realtà che ospitiamo oggi, quindi l'osservatorio Push. E applauso. E niente, quindi adesso magari facciamo un richiamo a chi è fuori e iniziamo questa tavola rotonda. Va bene, io inizierei intanto chiedendo a tutti i partecipanti se conoscono Turbe, se conoscono Exalge, se conoscono Osservatorio Push. No, no. Quindi diamo un attimo di contesto. Allora, siamo in Exalge. Vi siete tesserati a questa associazione che cerca quindi tramite una vita associativa, tramite i propri soci, di stare in vita in queste logiche no profit, proponendo attività di vario tipo, tra le quali un progetto di ricerca sull'abitare che si chiama appunto Turbe. Turbe è un progetto nato a gennaio con l'intento di indagare modelli abitativi alternativi a quello dominante, almeno poi magari facciamo un giro su questo, però quello che chi ha fondato il progetto pensa è che ci sia un modello dominante di vivere e abitare il mondo attualmente. Un modello che è sempre più, ormai da decine d'anni, forse dopo la rivoluzione industriale, in espansione. Per cui abbiamo relegato a un posto ben fisso la sfera della casa, la sfera del divertimento, la sfera del lavoro, separandole. E quindi abitiamo il mondo, le città in particolare, in un modo ben preciso, dove ogni luogo ha una sua funzione. E quello che vogliamo fare invece noi è cercare di dar risalto alle migliaia di realtà, persone, iniziative che provano a rompere un po' questo schema. E lo stiamo facendo tramite le assemblee qui in associazione e soprattutto tramite le residenze, dove queste alternative di vita, di abitazione, vengono messe in atto. E qui arriviamo all'osservatorio Push. E magari sull'osservatorio faccio dire due parole, non so se a Luca, a Fra. Bravo! Ci stava Fra, se vuole dire qualcosa tu, che sei un po' il connettore tra noi ed Exalge, ma ci sta. Cioè, vado. E poi riempire il buco, ok. Allora, Osservatorio è diciamo uno spazio, un posto che è stato preso in gestione da un passato progetto che si chiama PUSH, acronimo di People Unification Saves Humanity, nato come. Più vicino al microfono, sì. Nato come organizzatore di eventi privati per connettere, diciamo, le persone tramite la festa, essenzialmente. 2 anni fa abbiamo avuto un po' l'esigenza di trovare una casa a questo progetto che è stato un po' un punto di svolta, no? Quindi da soli eventi poi è diventato quello che oggi è un cercare di abitare in una maniera diversa, quindi di stare assieme, quindi di condividere, proprio di vivere poi in senso comune gli spazi e il tempo. Quindi un progetto ambizioso che è nuovo perché ha solo 1 anno di vita, che però è in continua evoluzione. Quindi tutt'oggi stiamo cercando di capire come in questa realtà ci si possa approcciare nella maniera migliore possibile, anche perché è diciamo, un processo complesso in cui le persone cambiano di frequente, ma pian piano si sta, diciamo, formando un nucleo un pochino più solido di quelle che sono le persone che abitano il posto. È un luogo sicuramente d'arte, di ispirazione, di lavoro, di co-creazione, di diciamo un qualcosa che cerca di portare tutto quello che accade durante l'anno tramite gli eventi e l'ospitalità di altri progetti e connessioni con altre realtà, poi nel convergere diciamo in un senso di unificazione poi nel festival che andiamo ad organizzare ogni anno, no? Che vuole essere un po' il culmine, la rappresentazione di quello che è poi il progetto stesso. Sono stato abbastanza vago perché c'è tantissimo dietro, non so se Fra vuoi aggiungere qualcosa, tappare qualche buco. Sì, allora, sì, appunto, il progetto è attivo realmente dal 27 dicembre del 2023, e quando abbiamo organizzato una prima residenza e abbiamo organizzato una festa di raccolta fondi per iniziare a pagare affitto e spese per avere questo spazio che prima era un ristorante bed and breakfast, dove appunto abbiamo organizzato una festa a luglio del 2023 e poi abbiamo capito che c'è la possibilità di diciamo trasferirci lì in qualche modo. In ogni caso, il progetto ad ora ha all'attivo un progetto di co-living, cioè si forma con un progetto di co-living. Abbiamo un orto, lo storto, che ci sfama e ci fa vivere un contatto diretto con la natura. È un esperimento perché, ad esempio, per me era il primo orto nella mia vita, venendo da una realtà urbana. Ti aggiungo che appunto è storto perché è in una valle del Cuneense, tra i boschi. Esatto, e quindi non è in piano, ecco. Con tutte quello che questo comporta, ecco. Poi abbiamo un nuovo progetto che è quello della Valmala Records, che è questo studio di musica, diciamo, che stiamo mettendo in piedi appunto in questi mesi. Poi appunto ospitiamo varie residenze che alcune volte hanno dei focus come può essere il festival, altre volte sono momenti di co-creazione, di stare insieme e apertura a altre a persone che altrimenti non interagirebbero con noi, forse. Quindi creiamo queste occasioni di vita comunitaria e co-creazione. Altre cose, poi ospitiamo eventi vari. Ad esempio, in questo momento ci sono 37 persone dagli 11 ai 18 anni su, che stanno coprogettando per dei bandi Erasmus Plus, quindi stanno vivendo il posto e se lo stanno godendo. Ci fa piacere mettere a disposizione questo spazio per un sacco di progetti che non siano che non siano nostri, e farlo vivere così. Ma se voi siete qua, chi li sta aiutando? Allora, al momento ci sono Fiocco, Miss Fiocco e Verca, Apollonia, che sono... Ringraziamo. Che ringraziamo, esatto, esatto. Grazie. Se ci state ascoltando, grazie mille. Thank you, Apollonia. I'm sorry because we are speaking Italian, because I think here we are all Italian. But I will translate you personally. E no, appunto, abbiamo fatto questo passaggio con Exalge. Appunto, Luca diceva, perché io sono il tramite, perché faccio parte di tutte e due le associazioni dal momento della fondazione, quindi abbiamo ospitato con piacere 6 persone di Exalge settimana scorsa, sì? Forse di più, 2 settimane fa, no, ah, ok, che sono venute a vivere lo spazio con noi, si sono date un grande affare, ci sono trovate molto bene. E adesso siamo qua appunto a parlare di questa esperienza, credo anche. Bravi tutti. E cederei la parola di nuovo a Giacomo o a qualcun altro, a qualche altro turbino, o addirittura se no faccio una domanda. Stimoliamo, ve la faccio, comunque ve la faccio a voi, ma è aperta un po' a tutti, ovvero come abitate quel luogo e cos'è per voi l'abitare, cioè proprio partiamo da alla larga, è sicuramente diverso da quello che succede qua, è sicuramente diverso da la logica dell'abitare comune, dominante, come diceva Acco. Come l'avete immaginato, come lo state creando e come ve lo immaginate, immaginerete l'abitare in Valmala? E chiunque voglia rispondere riguardo alla propria idea di abitare, ideale o attuale. Eccoci, io sono un abitante della Valmala. Secondo abitante, terzo abitante della Valmala. E... Ciao. Lele, piacere. Allora, l'abitare lì è completamente diverso rispetto ai ritmi imposti dalla società attuale, quindi è tutto scorre molto più lento, seguendo dei ritmi molto più naturali, non hai scadenze, abbiamo delle scadenze sì, ma sono diverse, non hai la scadenza dell'affitto, dell'orario di lavoro, è diverso, capito? Sì, ce l'abbiamo, ma non è quel solito routine del cazzo in cui sei incastrato dentro, avanti e indietro, cioè lavorare per pagare l'affitto e basta. Il tempo ha preso una dimensione diversa, è condivisione, anche il lavoro non è più solo un mezzo per arrivare a guadagnare dei soldi, ma è un momento di condivisione, di saperi. E quindi, insomma, mi sembra che sta andando tutto bene. Sta andando tutto bene, ci stiamo provando. E stiamo riducendo un sacco le nostre necessità, vivendo in quell'ambiente lì, in una realtà del genere, ti rendi conto di quante cose futili hai, di quanti vestiti hai nell'armadio, non ti servono, di un sacco di cose che ti sono state imposte dal sistema come necessarie, ma in realtà si potrebbe pensare a una decrescita, a un rallentamento, a una decentralizzazione, e quindi a concentrarsi di più su dei ritmi reali, naturali dell'uomo relazionato al pianeta e non a un sistema artificiale che è quello in cui viviamo, che secondo me è la cosa che ci crea più sbatti a tutti alla fine, perché abbiamo sempre questa sensazione di dover rincorrere un qualcosa che non arriva mai, di dover migliorare. Ok, raggiungi un obiettivo, ce n'hai un altro, tirando la promozione vuoi essere promossa ancora, no, basta. Invece noi ci poniamo degli obiettivi a medio e lungo termine, robe fattibili, raggiungibili, che ci danno soddisfazione, e funziona, per ora funziona. Io ci tenevo a contestualizzare, perché alcune di voi sono state su, ma non tutte le persone che vedo qua, quindi magari non conoscete, e anche chi ci ascolta da casa magari non ha avuto l'opportunità di venirci a trovare. Noi siamo in provincia di Cuneo, tra la Valmaira e la Valvaraita, cioè questa valle che non esiste, che è la Valmala. Noi siamo, il comune Busca, però noi siamo imbriccati un po' su, in mezzo al bosco. I vicini sono lontani, per quanto sì, e quindi siamo proprio in mezzo al bosco, un bosco bellissimo di castagni e ciliegi, poi c'è qualche altra pianta, però poche. E ci sono lupi, cerbiatti, ci sono volpi, ci sono rane, ci sono salamandre, ci sono i falchi, i cinghiali, così. Quindi, come dicevo prima, era un agriturismo, cioè, tipo un agriturismo, ecco. C'è una parte centrale che è la casba, che è mi piace dire che è dove la gente va quando si sveglia, perché c'è il bar, c'è attaccata la cucina, quindi far colazione, vai lì, vedi un po' chi c'è sveglio, così. E, con un bel balcone, con una gran vista, che è una roba che io ad esempio nacqui e crebbi nella fantastica Milangeles, dove quando apri la finestra vedi un altro palazzo di fronte, no? Quindi hai già questo senso di oppressione, questo senso di, non so, essere incastrato in una scatoletta. Invece lì c'è un'ampia veduta, quindi già dici, ah, caspita, posso fare cose fin là, no? E poi ci sono delle stanze giù, quindi tante di noi vivono nelle stanze, vivono, dormono nelle stanze, perché poi alla fine le stanze non è come la stanza nell'appartamento a Milano, che è il tuo spazio, e quindi magari la vivi anche abbastanza, no? Noi, vabbè, io personalmente vivo nello spazio comune. Adesso ho preso una roulotte con Pietro, però mi sveglio quando entra qualcuno alla porta, banalmente, no? E, quindi la stanza in sé non è che la viviamo troppo, noi viviamo più l'area comune e poi l'esterno. Tipo io quando c'è la possibilità, che magari non diluvia, robe così, mangio una cosa e vado nel bosco, oppure mangio una cosa e vado nell'orto, o comunque sto fuori. Poi ci sono altri spazi, uno è un forno del 1600 a legna, dove stiamo imparando a fare le pizze, il pane, queste cose qua. Poi c'è questo chalet che abbiamo appena semi ristrutturato, nel senso che abbiamo cambiato il tetto, abbiamo cambiato il pavimento, dobbiamo ancora mettere il laminato, però è quasi pronto. Poi c'è uno spazio sempre dello chalet, che è lo studio della Valmala Records. Poi c'è un rustico, che stiamo anche quello ristrutturando. C'era una stalla nel rustico, che adesso è il nostro magazzino. E poi stiamo appunto mettendo un po' a posto. C'è l'avamposto, che era un avamposto dei Templari a difesa del santuario di Valmala, e quindi ci sono anche le feritoie così. E lì abbiamo fatto una specie di spazio con un banco da lavoro, attrezzi, ci sono degli armadietti per chi ha bisogno di mettere dentro vestiti da lavoro. Poi abbiamo, abbiamo un lago che si chiama Elio, che è nato l'anno scorso, che raccoglie l'acqua piovana e l'acqua di due sorgenti a monte. E poi abbiamo attivato anche un'altra area per il festival dell'anno scorso, che è il Ritmo Bosco, che è questo stage costruito nel bosco con solo cose trovate nel bosco, cioè trovate il secco che abbiamo tagliato, abbiamo fatto un po' di costruzioni e stiamo ancora lavorando per stupire le partecipanti e i partecipanti che verranno al festival quest'anno. Dimentico qualcosa? Secondo me hai fatto una mappatura. Mappatura fantastica. Comunque su Google Maps è riuscito a vedere un po' tutto. E poi c'è la terrazza che è uno degli stage del festival, che adesso abbiamo coperto con una stretch tent. Direi che ci siamo, sì. Presidente? No, poi magari su ognuno di questi luoghi credo che ci siano un sacco di curiosità e approfondimenti, ma prendevo la parola semplicemente un po' da facilitatore, visto che abbiamo creato questo bellissimo cerchio storto. Secondo me potrebbe essere interessante, se avete voglia, ognuno dei partecipanti prendere un attimo la parola dicendo, se volete, sentendovi libere, perché siete qui, in che veste, e soprattutto se avete delle domande riguardanti al tema osservatorio, al tema abitare, insomma fare un attimo un giro in questo senso. Libere, e iniziai pure chi vuole. Una domanda: dove posso trovare altre informazioni? Puoi chiedere intanto. Dove mi trovo? Su che canali digitali? La domanda è dove vi trovo? Per adesso ci trovi su Instagram, diciamo con la pagina di Push Festival, che però è solo relazionata al festival. Stiamo cercando di comunicarci all'esterno nel momento in cui ci sentiremo abbastanza pronti e stabili per poterlo fare anche, nel senso facciamo già un sacco di cose, però nel modo in cui va comunicato il progetto poi ci sentiamo ancora un pochino, diciamo, fermi, no? Perché la maggior parte delle persone ad oggi ci conosce per quello che è l'organizzazione del festival, essenzialmente. Quindi per oggi quello è l'unico canale. Poi abbiamo un gruppo Telegram che si chiama Radio Sauna, che è il gruppo con cui è nato il progetto, no? In cui io e te forse eravamo i primi due partecipanti a questo gruppo, in cui c'è stata poi l'idea di creare una radio all'interno di una sauna nello chalet di cui parlava prima Frano. Questo è stato il primo input, dove adesso c'è nato lo studio poi di Balmala Records. E, altri canali, abbiamo un broadcast su WhatsApp con cui aggiorniamo le persone che ci seguono sui vari eventi che abbiamo all'interno dei nostri spazi. Però non abbiamo un sito ancora, non abbiamo una pagina Instagram, un social dedicato al progetto Osservatorio, diciamo. Questo per adesso. Pensate che vi manchi? Io personalmente non lo credo. Poi essenzialmente potrebbe... No, figurati. Nel senso che c'è tanto passaparola e quindi di conseguenza le persone arrivano senza la necessità di poi di comunicare quello che poi alla fine siamo, no? Perché poi anche un po' l'attrarre le persone che risuonano col progetto anche solo sentendone parlare. Il festival funziona molto anche come cassa di risonanza per tutto quello che facciamo. Però sì, è essenziale avere un'identità anche per mostrarsi poi all'esterno, quindi di conseguenza non possiamo rimanere, diciamo, senza una copertina per sempre, quello sì. Sì, e tra l'altro il nome Osservatorio Push, beh, c'era già nelle nostre teste, diciamo, però non avevamo un nome fino a un mese fa, due mesi fa neanche. Siamo stati senza nome per un anno. Perché non sapevamo come chiamarci, ecco. Era meglio a quel punto fare, no? Iniziare a fare questa cosa senza dargli un nome specifico. Adesso abbiamo scelto questo... Però non si sa neanche se è definitivo, è una prova. Probabilmente lo sarà, però è un punto importante secondo me questo. Tocca anche il tema dell'identità, quindi magari dell'ego, no? Quindi un non sentirsi chiamati e anche un non identificarsi nel singolo, ma anche cioè, come gruppo, e quindi di conseguenza trovare un qualcosa che rappresenti tutti, che non arriva subito, magari poi arriva col tempo, che è quello che... In realtà poi è sempre stato dall'inizio, che è stato poi trovare la casa, almeno io parlo dal mio punto di vista legato al progetto Push, trovare poi la casa a quel progetto lì, che poi ha annesso tante altre persone come Verca, Teo, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è poi stato un tornare al punto di partenza, quando si è poi fatto la ricerca del nome essenzialmente. Sì, che avevamo fatto l'email osservatoriopush@gmail.com, se volete contattarci scriveteci lì, e poi alla fine il nome è stato quello, no? Sì, poi alla fine, cioè, il nome è un qualcosa che rappresenta quello che fai, quindi essenzialmente poi è quello che fai che rende il nome, diciamo. Sì, no certo. No, era una mia domanda solo, però vabbè, in realtà farei prima il giro di presentazione. Dai, dopo. Ma io sono già parte del progetto, cioè io lo farei per le persone nuove. No, volevo chiedere, visto che appunto state parlando del festival, eccetera, un po' qual era, tra virgolette, il vostro manifesto artistico rispetto al festival, quindi che idea avete proprio a livello artistico come proposta, diciamo? Sì, allora, fino all'anno scorso era un festival molto incentrato sulla musica, no? Quindi c'è un festival con magari 3 stage, 50 artisti musicali in 3 giorni, una serie di workshop anche, quindi per integrare quella che era una richiesta poi anche di, cioè, di, diciamo di esatto, di altre, un altro tipo di persone. Da quest'anno abbiamo deciso di aprire un nuovo spazio che offre appunto una varietà diversa, che non è solo più quella musicale o quella dei workshop e quindi dell'interazione, che comunque poi è al centro del, diciamo, di quello che vogliamo trasmettere, no? Quindi la connessione tra le persone, quindi anche nella scelta degli artisti musicali o dello stile musicale che fanno, si cerca sempre in un qualche modo di proporre un qualcosa che è facilitatore nella connessione tra le persone. Questo anche nei workshop, ma soprattutto lo sarà anche nell'Agorà, che è questo nuovo spazio che apriamo, che sarà legato ai talk e a temi di discussioni forti, legati sicuramente all'abitare. Sicuramente sarà uno dei temi centrali sarà quello della festa come impatto sociopolitico, quindi come veicolo di trasmissione di questo tipo di idee, anche di come può agire in maniera positiva sulle persone. Però ancora tutto in fase di costruzione, cioè è un'idea che è arrivata da qualche mese, lo stiamo costruendo, però c'è una buona base. Sicuramente non sarà un festival in cui si viene solo per ballare, ma si viene per imparare, per condividere, per diciamo, sì, che cioè cerchiamo di avere un pubblico molto variegato. Ad oggi sicuramente sì, viviamo lassù nei bricchi, in montagna, cioè, dimenticati da tutti, però la città è quello che comunque ci alimenta, no? Perché la maggior parte delle persone che arrivano dalla città, e quindi questo già solo è un segnale abbastanza forte di quello che le persone poi cercano. E quindi funziona anche un po' proprio da motore rispetto al nostro progetto. Cioè, deve esserci questa sinergia qua, perché noi possiamo funzionare, ma anche perché le persone poi che cercano uno sfogo vengono poi da noi a cercarlo, essenzialmente. Diciamo uno spazio molto libero, in cui comunque si è sempre aperti comunque le proposte. Sì, diciamo che cerchiamo di ospitare poi, beh, per quanto riguarda magari gli eventi, i progetti, si cerca di farli risuonare con quello che cerchiamo di trasmettere noi. Fino a un anno fa, quello che volevo capire, cioè, nel senso, cioè, cosa voi volete trasmettere, cioè, nel senso, quello, la domanda poi. Ma quello che vogliamo trasmettere sicuramente sono un pochino un po' l'interrogarsi anche, no? Nel senso che filosofeggiando un po' proprio il senso di comunità, e quindi dell'abitare, quindi del condividere, dello stare assieme, che viene percepito nel momento in cui tu, questo parlando del progetto e non del festival, tu vivi tutti i giorni comunque con delle persone, no? Quindi sacrifichi una parte di te stesso in un qualche modo, perché comunque devi in parte darla, in parte non è per niente semplice, soprattutto poi quando le persone cambiano, eccetera eccetera. Però quando poi ci si allinea risulta essere molto più facile di quello che sembra, essenzialmente, perché poi si è una famiglia, si è una comune, ci si aiuta, cioè quando non c'è uno c'è l'altro, e quindi di conseguenza ci si spalleggia molto in questo senso. E, appunto, per quanto riguarda poi il mantenere, diciamo, il progetto vivo, stiamo cercando di farlo ospitando progetti e situazioni ed eventi che appunto risuonino. Fino a 2 anni fa ospitavamo magari il compleanno dei 25 anni della persona che si sfa, ad oggi ci siamo detti no, basta, quella roba, ok, dobbiamo pagare l'affitto, perché comunque dobbiamo pagare, non dice come dicevate voi, in realtà non è proprio così, dobbiamo pagarlo. E ad oggi riusciamo comunque a star su con, cioè, ospitando delle situazioni che risuonano. Quindi, e c'è tanta... Cioè, c'è un po' anche congruente rispetto al vostro... Sì, assolutamente. Sì, l'obiettivo è quello, cioè fare in modo che, cioè, questo progetto viva di quello che vuole trasmettere e non debba piegarsi a... Quindi anche lo studio di registrazione immagino sia un po' legato sempre. Assolutamente. Ad esempio stiamo cercando di tirare in mezzo artisti per il festival proponendogli in cambio magari di un DJ set o di una performance una residenza artistica da noi, magari pagata per 2, 3, 4 giorni, in modo poi da portare anche proprio loro all'interno del nostro progetto con più costanza, quindi a fare in modo che ci sia poi una connessione vera, non solo più frontale, esatto, rispetto a quello che può essere una performance, no? Certo. Quindi sì, stiamo un po' cercando di... Cioè, sono tante cose che stiamo cercando di implementare, che comunque sono non sono di facilissima gestione, però... Il fatto che qualcuno ci voglia provare, cioè, credo che sia tanto. Cioè. Bravi! Propongo, proprio così mi lancio. Vai. Mentre ci presentiamo facciamo le domande. No, secondo me ha senso, visto che siamo in così una specie di assemblea. No, però pensavo le persone nuove. Vabbè, io chi sono? Io sono Laura. Chi sei? Sono nuova. Sono una neo-exalgina e sono qui perché partecipo al progetto di Turbe, e che personalmente per me è anche un'indagine di capire, appunto, per me anche proprio personalmente, qual è la mia dimensione dell'abitare in questo momento della mia vita. Vivo in città e ho più o meno un equilibrio, però non so se è, diciamo, quello che mi fa star bene in senso più totale. Quindi mi sono approcciata a questo progetto insieme ad altre persone che sono qui di Exalge, e basta, questa è la mia presentazione. E la mia domanda era su, no, se volete dire qualcosa in più sul titolo, cioè sul vostro nome, nel senso che mi sembra un nome molto forte e significativo, anche nel senso dell'idea che un po' avete del vostro abitare e dello stare insieme, cioè che non darei per scontato nei termini in cui penso che il vivere cittadino, per me la cosa che a me pesa è che penso che sia, pur essendo un luogo magari molto popolato, molto più che dove siete voi, è molto individualista, e quindi in realtà questa sensazione di essere soli in un pool di persone e di non riuscire a instaurare dei rapporti, cioè dei veri contatti, non so come dire, cioè incontri tante persone ma è come se sfuggissero, cioè non riesci a acchiapparle, e c'è questa, appunto, anche dimensione di tempo che scorre veloce, e quindi come non c'è quella cura di conoscersi veramente, e che può dare un senso di solitudine, in verità, di isolamento. Brava Laura, hai centrato il punto, 100 punti a Grifondoro. Appunto ci chiamiamo Osservatorio Push, immagino perché appunto è un luogo dove possiamo osservare come People Unification Saves Humanity, nel senso che appunto veniamo, io personalmente parlo sempre per me, vengo da una città dove spesso e volentieri non sai neanche chi vive di fianco a te, la sera torni da lavoro e vai nel tuo loculo e c'è un'iper competitività per qualsiasi cosa, anche solo, non so, per il parcheggio. C'è gente che no, questo è mio, l'ho visto prima io, cioè ci si insulta a caso. Sì, è competizione allo stato puro, è un risultato del sistema turbocapitalista in cui viviamo, e che crea appunto individualità e ci mette i paraocchi da quello che abbiamo di fianco. Invece su, come in tantissime altre realtà di vita comunitaria, stiamo cercando di prenderci cura le une delle altre, ecco, nel quotidiano. Quindi ad esempio, se io sono nel bosco a tagliare la legna, magari c'è, non so, Mr. Y e Miss X che stanno cucinando, così io quando ho finito di tagliare la legna per scaldarci tutte assieme, posso mangiare. Questo è proprio un micro esempio di cura reciproca, ecco. E poi sicuramente il vivere assieme porta anche a interessarsi di più di quello che l'altra persona sta vivendo, e appunto adesso ne facciamo uso, e ci sono questi momenti di condivisione di come ci sentiamo. A volte sono one to one, a volte sono siamo più persone, e lo senti subito se una persona sta provando il disagio in quel momento o c'è qualcosa che non va, perché cioè, non fai finta di niente, no? Cioè, sei lì e si affronta assieme, almeno questo è per l'esperienza che sto vivendo io. Sì, diciamo che c'è un alto livello di presenza sicuramente, no? Nel senso, quando si vive assieme non puoi far finta di niente, no? Quindi certe cose poi sei portato ad affrontarle per forza, no? E quindi questa cosa qua ti obbliga ad andare incontro all'altro, o a volte appunto fare in modo che l'altro possa venirti incontro, e non è semplice sicuramente, no? Perché poi si innescano dinamiche per cui l'individuo lavora su se stesso, ma per lavorare, diciamo, per la collettività. Quindi c'è un lavoro interiore anche molto grande, cioè di crescita, secondo me, cioè non scontato, non banale. Sì, è un po', diciamo, l'opposto di quello che può succedere in una grande città, come dicevi prima, dove diciamo, molte relazioni sono sfuggenti, sono superficiali, sono un pochino più vedo, non vedo. Nel momento in cui sei presente in un posto e lo abiti con delle persone, cioè inneschi anche in te stesso dei cambiamenti poi forti, no? E questo è sicuramente un tema. People Unification Saves Humanity è un... una sboronata gigante, no? Che all'inizio è stata scelta un po' per appunto per gioco, legata alle feste, che però poi si è rivelata molto essere quello che volevamo trasmettere anche attraverso le feste, poi che poi è evoluta, no? Cioè, con questo, cioè, ha fatto un po' il salto dall'adolescenza all'essere adulto, questo push, no? Da far feste, giocare, a dire ok, adesso facciamo qualcosa di un attimo più sensato, no? Sempre giocando, ovviamente, no? E quindi c'è è un tema enorme che sicuramente parte dal piccolo, no? Che è quello che stiamo facendo, ma che vorrebbe essere nella nostra immaginazione qualcosa che va a connettere magari realtà simili alla nostra, che non per forza devono essere su nei bricchi, ma possono essere una realtà come Xalge in una città, o realtà come, non so, mi immagino tutte quelle che nella valle di fianco a noi sono nate negli ultimi 10 anni, no? Quindi gli antagonisti, i Rays, adesso ne cito qualcuna che sicuramente non conoscete, che però sono tutte realtà nate giovani, che in un ambiente come quello montano sono un po' obbligate a far rete, no? Quindi a stare assieme per sopravvivere, tra virgolette, no? Quindi a portare avanti la loro stessa realtà grazie anche alle altre. Quindi anche un po' questo, il people unification, cioè si intende nel piccolo come un po' nel grande, no? Si può, è scalabilissimo all'infinito, se vogliamo, no? Dipende un po' cosa uno vuole trasmettere. Sicuramente adesso partiamo creare una nostra realtà solida, con delle basi solide, per poi provare a trasmetterle. Ma già solo il fatto di ospitare persone, di far vedere come si vive, di farli immergere un po' nell'energia che si crea quando stiamo assieme, quello è già tantissimo, perché la persona che arriva e poi torna a casa si porta tanto a casa e riflette anche tanto su quello che ha visto, su quello che ha vissuto, magari nelle residenze di una decina di giorni, no? Che sembrano magari la vacanzina, però poi ti innescano dei meccanismi per cui inizi a farti anche delle domande, no? Su quello che stai facendo, su quello che stai vivendo, su come lo stai vivendo, con chi lo stai vivendo, no? Quindi un po' anche cercare di risvegliare, no, le persone, forse questo, credo. Ciao a tutti, io sono Giulia e sono qua perché sono legata sia a Exalge che a Fra e anche a Push. Sono stata a Busca l'anno scorso in occasione del festival, è stato fighissimo, infatti non vedo l'ora che arrivi luglio. E no, mi chiedevo, vero che dicevate che i vostri vicini sono molto lontani, però se avete comunque, diciamo, un rapporto con gli attori del territorio, se vi interfacciate anche per un evento così grosso come il festival, come sono questi attori, anche questi altri valligiani, insomma, vi piacete a vicenda, ci sono difficoltà, richieste reciproche, interessava appunto il rapporto con col territorio. Ma allora, c'è diciamo la parte più burocratica degli attori, che possono essere il comune di Busca, la polizia locale, e poi c'è tutta la parte di realtà simile alla nostra, no? E, allora, sicuramente le persone che vivono diciamo la vallata a volte sono un po' spaventate, no, da quello che facciamo, nel senso che portiamo una varietà di persone e cose a cui non sono abituati, no? Quindi di conseguenza anche è difficile integrare, cioè fare in modo che si sentano al sicuro, magari, cioè in ambienti del genere. Però, nel senso, non è che gli diamo fastidio, nel senso, noi facciamo il nostro, diventa difficile tirarli dentro, fargli conoscere più quello che facciamo, no? Ci vedono magari un pochino come un qualcosa di anormale, no? Rispetto a quello che sta succedendo. Quello che succede lì sono più realtà molto legate al lavoro, no? Quindi strutturate, non so, come agriturismi o viene da dire questi brew pub, piuttosto che comunque realtà molto giovani che cercano di fare qualcosa. Poi c'è un po' di tutto, però c'è una realtà simile alla nostra, Andirivieni, che è un co-housing però in piena, diciamo, città di Busca, che con cui stiamo cercando, è la prima realtà con cui stiamo cercando di fare qualcosa. Faremo qualcosa verso la fine di giugno, in cui riusciremo a portarli su, però in un'ottica molto di svago, in cui loro verranno ospiti a svagare da noi per una pizzata sociale, in cui abbiamo integrato anche questa festa per i genitori, in cui inviteremo tutti i nostri genitori, no? Faremo questa cosa un po' strana. E invece, per quanto riguarda diciamo il comune, è tutto molto borderline, diciamo, nel senso che cerchiamo assolutamente di fare le cose nella maniera più legale possibile, sempre, però farle in maniera 100% legale è molto difficile, ma come tante occasioni, no? Però ci stiamo interfacciando anche col SUAP per diventare circolo privato. Il fatto che è una realtà molto giovane, cioè in un anno abbiamo fatto tantissime cose, diciamo non siamo ancora riusciti a trovare la formula perfetta per noi, ancora stiamo ancora lavorando su questa roba qua. Ci stiamo facendo conoscere pian piano, senza proprio arrivare a gamba tesa e dire: uè, ci siamo anche noi, facciamo tutte queste robe qua, perché anche un po', cioè nel senso, quello che spaventa noi stessi è proprio dire, minchia, arriviamo in un posto, proponiamo una roba che non esiste e veniamo già subito categorizzati, perché poi il rischio è sempre quello, no? Di essere categorizzati in una maniera negativa, no? Pur cercando di trasmettere e condividere valori positivi in quello che facciamo. Ecco, comunque ci tenevo a precisare per le gentili radioascoltatrici e radioascoltatori che dagli ultimi aggiornamenti mi dicono dalla regia che facciamo tutto in modo iper mega super legale e non c'è alcun tipo di infrazione e abbiamo tutti permessi per fare tutto e non c'è bisogno di alcun tipo di controllo e niente, sì. Questi sono gli aggiornamenti che ci hanno appena mandato dalla direzione. Ok, i nostri quattro ascoltatori saranno felici di saperlo. Vabbè, ciao, sono Federico, vivo qua sopra, sono un socio di Exalge. Questa è la quarta assemblea che faccio in settimana, di cui due a Venezia, quindi sono un po' stanco, ma ero presente a Busca, devo dire, non ho contribuito tanto al vostro progetto, perché purtroppo avevo tante cose da fare rispetto al mio, però insomma, devo dire, mi sono sentito anche molto a casa e anche proprio in termini di accoglienza e anche diciamo spazio per poter così anche chillare un po', poi io arrivavo da una settimana di lavoro molto impegnativa, comunque è stata super. Mi interessa molto eventualmente approfondire il discorso dell'Alpachino, che anche insomma, poi vabbè, io faccio parte di Macao, quindi noi avevamo il Common Coin e quindi ma fra anche Pietro lo sa, insomma, quindi no, rispetto invece a questa assemblea, questo forse è un po' un momento, un po' un turning point per Turbe, nel senso che la metto sul piatto, poi nel senso che sono state fatte due residenze, non sappiamo bene dove fare la prossima, ci sono tutta una serie di idee, iniziative, anche l'idea di fare un editoriale che possa uscire entro la fine dell'anno, radunare intorno a questo, diciamo, anche momento comune, forse potrebbe aver senso ragionare anche un po' insieme su come sviluppare il progetto, anche rispetto a dei contributi che possono arrivare da persone che ci hanno conosciuto insomma durante la settimana fatta insieme. E che dire, cioè io sono in una fase molto urbana, nel senso che quando finisco lì un po' tra i monti, lo sappiamo, sono in una fase molto urbana, quindi faccio ho bisogno forse di trovare quell'unione di cui parlava Fra con la montagna, con la natura, con i paesaggi, col lago Elio e il drago, che l'anno scorso al festival si diceva che c'era nascosto, ma forse in realtà era solo una... Comunque c'ero anch'io al festival, quest'anno non so se ci sarò, ma era stato super il festival. Nulla, quindi mi sono trovato bene, però credo che questa assemblea qui forse può essere anche il momento, avendo anche diciamo loro e anche altre persone, per provare anche un pochino a ragionare a come, cioè verso dove sviluppare Turbe. Poi non voglio prendere troppo spazio, quindi questa è la mia proposta. E Grazie Fede, non so se risponderti io o se continuare. A me piaceva l'idea di un attimo sapere appunto tutti i partecipanti, però non è partita questa cosa, quindi vabbè, intanto rispondo un po'. Sì? No. Se vi va, secondo me, senza sentirsi obbligate. Beh, io sono Francesca e sono qui perché ho fatto una residenza a Pasqua all'osservatorio Push e mi è piaciuto moltissimo vedere, cioè ho visto del vostro progetto di Turbe perché conoscevo Push, però sono molto contenta di averlo incontrato perché anche quello che poi mi ha portato al Push è stata proprio una domanda sull'abitare che è nata per la mia storia personale, cioè perché quello che la società ci propone come famiglia è qualcosa in cui io non mi trovo e non potevo stare dentro. E crescendo l'esigenza di avere una famiglia è diventata più forte, ma il nucleo a due è qualcosa che immaginativamente per me non poteva esistere. Tra l'altro è un nucleo assolutamente funzionale per il sistema e che continua a tenerci atomizzati. E quindi la necessità nasce da il fatto che mi sono resa conto che per me la famiglia non è partner e figli. E la mia famiglia hanno cominciato ad essere i miei amici, le persone con cui avevo dei progetti e con cui avevamo delle pianificazioni future insieme. E lì è cominciato ad emergere il bisogno sull'abitare, cioè come possiamo abitare insieme senza ricopiare un modello che non funziona, che anche se è solo un aggiungere persone all'interno di un nucleo familiare non funziona uguale, perché si creano dei confini, ci siamo noi chiusi qua dentro e voi per quanti possiamo essere noi lì dentro. E quello che mi è piaciuto moltissimo della realtà di Push è stato vedere come l'abitare gira intorno a un progetto comune che per ora è quello grosso del festival, ma anche di tutti gli altri eventi che poi vengono organizzati durante l'anno, perché questo è quello che tiene insieme le persone senza la forzatura del o sei dentro o sei fuori. Quindi la libertà di poter passare di lì per più o meno tempo, vivere più o meno lo spazio e essere legati da un progetto comune. E niente, per me la festa è politica e quindi se il progetto è la festa, niente, questa è la mia storia. Io sono Leonardo, nato, vissuto a Milano, poi ho girato un po' a Bologna, a Savona, ho vissuto contesti urbani principalmente e in parte rurali. Ma una riflessione che è anche una domanda in realtà, la vostra realtà che conosco pochissimo, un po' meglio grazie agli interventi finora. E inizierei dicendo che diciamo finora quello che è uscito un po' l'abitare è condivisione, forse soprattutto per le persone che sono intervenute fino ad adesso, o magari è una mia interpretazione, perché penso che sia questo forse, no? Abitare è condividere principalmente. E penso che ci siano dei livelli interpretativi della realtà sicuramente differenti, che il contesto sicuramente amplifica delle dinamiche e quindi il contesto urbano sicuramente amplifica dinamiche individualiste, però per sdrammatizzare un po', fare una battuta, Leopardi l'infinito non l'ha scritto a Milano, e io ho vissuto in contesti rurali proprio per costruiti su modelli diciamo della società che è stata criticata in questo luogo e che condivido, però in contesti estremamente rurali, estremamente periferici, in cui la condivisione non era sicuramente un modello di vita. Ecco, quindi stiamo parlando, cioè sto parlando in un'alta valle, alta Val di Vara, quindi contesto contadino estremamente rurale. E quindi penso che appunto sia da sottolineare più che il contesto in sé rurale, che sicuramente è parte poi dell'interpretazione che ne fate, però la scelta della condivisione. Questo è bellissimo. Però vi chiedo, così chiudo l'intervento che già è stato lungo, questa scelta di condivisione appunto come si sposa dal punto di vista proprio pratico, perché la dimensione spirituale forse mi è un po' più facile comprenderla, mi incuriosisce molto dal punto di vista poi diciamo quotidiano, no? Anche perché voi date delle risposte diciamo, la dico brutta, però palliative, perché sono persone inserite in un contesto urbano o comunque magari in un comune per quanto piccolo, già Cuneo rispetto a Milano sicuramente magari offre una dimensione delle dinamiche differenti, un po' più diciamo vicine al vostro sentire, al vostro vivere, però comunque urbane. E quindi per dire, l'abitare, a parte la condivisione, oggi l'abitare è anche, insomma, il domicilio ti dà l'accesso al medico di base. Quindi vi farei anche una domanda veloce sull'infrastruttura, quindi i collegamenti del trasporto pubblico locale, cioè vi muovete in macchina, ma c'è la corriera, questa domanda veloce. L'altra domanda è appunto dal punto di vista del medico, come vi interfacciate anche in ottica diciamo di società oggi, cioè ci sono dei bandi europei che pensate che un giorno potrete accedere, perché il vostro modello è replicabile all'interno della nostra società e quindi modificare la società, o vi sentite più vicini diciamo a un rifiuto della società che è legittimo, era proprio per capire bene il modello che proponete, ecco. Bella, allora, bella domanda. Io però ho capito che ci sono due parti della domanda, io magari rispondo a quella più delle infrastrutture, su come raggiungerci, dove siamo? Allora, siamo in strada Valmala 56, a Busca, e per raggiungerci le persone, allora, o arrivano in macchina, o arrivano col treno, e il treno le può portare a Cuneo, e poi c'è un autobus che è il 91 che da Cuneo le può portare a Busca, e lì arriva a Busca. Oppure treno che arriva a Busca, perché c'è anche un treno a Busca da poco, e poi da Busca cosa fai? Allora, o cammini e ci si mette un'ora e mezza circa, una bellissima passeggiata in mezzo alla natura, fantastico. Oppure alza la cornetta, 17 o chi per l'osservatorio verrà a recuperarti in macchina alla fine. E questo è un po' come funziona al momento la cosa. Faremo richiesta sicuramente al comune di Busca di stanziare i fondi per una corriera. Per un'ambulanza, ah sì, tra l'altro l'ambulanza lì penso che ci metta almeno una mezz'ora, 40 minuti ad arrivare. E quindi quando fate legna nel bosco fatelo solo se sapete che cosa state facendo, e fate attenzione anche se sapete cosa state facendo. E nessuna di noi è medico, io sono bagnino, quindi ogni tanto mi improvviso nella medicanza. Però sì, penso che l'ospedale più vicino sia cioè, c'è un ospedale a Busca, però mi sa che è tipo geriatria così. E poi ci dovrebbe essere un Cuneo più vicino, sì. Forse c'è una guardia medica a Busca, che l'ho chiamata una volta di notte perché una di noi si è messa tipo delle forbici nell'occhio tagliandosi la frangia, e a un certo punto non riusciva a dormire, mi ha detto no, cosa faccio, così erano le 4 del mattino, ho chiamato la guardia medica e loro mi hanno detto sì, vai in ospedale, spero che ci sia l'oculista, però porta subito, no? Subito, cioè non adesso, domani, perché l'oculista sta dormendo adesso. E quindi niente, questo è un po' il rapporto che abbiamo. Sicuramente cerchiamo di curarci con le piante che abbiamo intorno e con la bellissima energia, prevenire è sempre meglio che curarsi. Invece per la parte passo la parola al collega. No, sul proporre modelli alternativi, però nel contesto, diciamo, società adesso poi. Nel contesto, no, okay. Cioè banchi, certo, europei, anche regionali. Ma allora, o anche dicendo alla regione: guarda, che noi abbiamo queste esigenze e non siamo gli unici. Sì, sì, sì. Ma allora, ho avuto già un paio di colloqui con, proprio nella pratica, con Intesa San Paolo, che finanzia progetti comunitari legati al, cioè nel sociale comunque ci sono tanti fondi se uno va a cercare. Chiaramente non ci sentiamo ancora pronti per proporci, no? A parte che l'associazione, per penso, adesso correggetemi, ma deve avere almeno un paio d'anni di attività prima di accedere dei fondi, no? Quindi noi siamo ancora, cioè, neonati, nel senso siamo un anno e mezzo di vita, forse quasi due, sì. Sì. Quindi sicuramente la direzione sarà quella, cioè vogliamo dare un'impostazione del progetto che non è quella facciamo i fricchettoni, viviamo sulle montagne, la società ci fa schifo, ma anzi è proprio connetterci a chi ci sta intorno per trasmettere quello che vogliamo fare, far vedere che si può fare. Questo sarebbe il goal, certo. Finale, no? Poi cercare di creare un modello replicabile è mega ambizioso, ma proprio per il fatto che, cioè, quello è anche assolutamente uno dei nostri obiettivi. Io personalmente ho la convinzione che ogni spazio abbia il suo modello, no? Nel senso, non puoi prendere un modello e poi portarlo ovunque, perché non funzionerebbe, credo, proprio per le dinamiche che si instaurano proprio con quello che è intorno. Assolutamente, le persone, le realtà che... Come? Sarebbe anche un prodotto. In che senso un prodotto? Se fai repliche... Ah no, certo, no, diventerebbe qualcosa che stai combattendo praticamente, no? Andresti a... Cioè, nel senso, poi dipende, puoi farlo a fin di bene, nel senso che stai cercando di co-creare una rete, no? Cioè io mi immagino nel futuro una rete di realtà del genere, per collegarmi poi anche al discorso degli alpachini che faceva... esatto, c'è, cioè, una rete di chiamiamole realtà simili che comunque cercano, diciamo, nell'abitare una visione condivisa legata anche a quello che stiamo facendo noi, che poi comunque cioè, non è semplice per il fatto che si instaurano dinamiche super complesse. Noi l'abbiamo iniziata da poco più di un anno e quindi la stiamo capendo ancora, no? Però comunque una realtà fatta di responsabilità, fatta di doveri anche, no? Perché se no non stai in piedi, no? Cioè, è un qualcosa che va trattato come se, cioè, alla fine è la tua vita, cioè devi organizzarla, devi fare in modo che funzioni, e quindi cioè, va preso come un qualcosa che deve essere strutturato sicuramente, se no non stai in piedi. Noi siamo, cioè, mi sento di dire che siamo a una buona parte della struttura in un anno, che però va ancora sicuramente implementata, modificata, e questo possiamo farlo uno, tramite l'esperienza nel luogo, quindi vivendo quello che stiamo costruendo; due, tramite le esperienze di altri spazi che già magari l'hanno affrontata da diversi anni. Cioè, ci sono tantissime realtà anche solo in Italia che hanno fatto delle cose che durano da decenni e stanno ancora assieme, no? Quindi sicuramente possono essere dei modelli, in primis quelli che possono essere interpretati relativamente a quello che uno vuole costruire nel luogo in cui ha deciso di farlo. Che poi diciamo che noi l'abbiamo deciso un po' per comodità, no? Questo spazio è stato uno spazio che era di mio nonno, no? Quindi non siamo andati a cercarcelo, no? Ma era un po' come già averlo in casa, e quindi partire da quello che si aveva, no? Non abbiamo detto: ah, guarda che figa quella roba lì, proprio lì vogliamo farlo, proprio in quello spazio lì, perché abbiamo in mente, no. Siamo arrivati lì e abbiamo detto: ok, cosa possiamo fare qua con quello che abbiamo, con le persone che siamo? E quindi un po' adattarsi anche a questa cosa, no? Non so se ho risposto. Sì, sì, beh, certo, sì. No, era uno spunto, mi interessava appunto l'interpretazione che ti hai dato. Grazie. Presentazione. Ciao, io ho una domanda. Sono Elena. E, sulla, in realtà molto pratica, perché le altre domande che avevo le avete già esaurite tutte, quindi vuol dire che siete stati abbastanza esaustivi. E, sull'attività di turbe, cioè come vi trovate, cosa fate? Il tema dell'abitare è una questione abbastanza, cioè, che a me è molto cara, quindi sarei più interessata a saperne di più. Sì, è un progetto nato questo semestre. E ci ritroviamo qui principalmente. C'è un gruppo che su Signal che si occupa di tenere traccia di riunioni, appuntamenti in cui ci ritroviamo qui principalmente a parlare e a progettare le attività, quindi le residenze piuttosto che la scrittura dell'editoriale, raccolta dei file audio, di registrazioni, presentazioni. Organizziamo date come questa, questa non l'abbiamo veramente organizzata, ma insomma più o meno. E questo più dal punto di vista operativo, cioè di solito lunedì sera qui ci si mette d'accordo, si viene, ci si riunisce, ed è un gruppo aperto, si parla di, ci sono delle premesse, c'è una cartella condivisa con delle chiavi di ricerca più o meno condivise, è un interrogarsi anche, mi è piaciuta la parola che ho usato prima Luca, è un interrogarsi sull'abitare. Non è, è una ricerca, ecco. E poi fare dire qualcosa di più al teorico nucleare. Ma no, cioè, dipende un po' cosa vuoi sapere. Appunto, da un punto di vista operativo, la premessa grossa è che è un progetto completamente in fase di sviluppo, e abbiamo scelto, proprio perché siamo in una fase sperimentale, di partire da realtà amiche intanto, quindi Push era, a parte che molti di noi c'erano già stati, poi c'era Francesco che è anche fondatore di Exalge, la residenza scorsa abbiamo fatta in Liguria, in Terra, che è un'azienda agricola di un amico, e anche le prossime in programma sono di amici, quindi partiamo dal presupposto che il collettivo stesso, il gruppo di ricerca, è un gruppo che si sta ancora formando, e che le residenze che abbiamo fatto le abbiamo fatte in luoghi, tra virgolette, conosciuti, proprio per metterci un po' alla prova noi. Detto questo, il progetto ha l'ambizione di cercare di raccontare, come ho detto in apertura, modelli alternativi di abitare il mondo, quindi nella loro molteplicità più assoluta, appunto aziende agricole, gruppi informali, comunità, ma anche persone singole. Quindi raccontarle, collegarle magari tra loro, collegarle con Exalge, creare insomma un discorso intorno al tema dell'abitare, in senso antropologico soprattutto, nel senso che la nostra chiave un po' di ricerca a livello teorico è antropologica, io vengo un po' da quella scuola lì, quindi la ricerca etnografica, soprattutto qualitativa, più che quantitativa, quindi non tanto ricerca di dati, non partire già con delle domande di ricerca troppo fisse, ma costruirle insieme osservante, osservatore, anzi cercando di far scomparire proprio osservante, osservatore, ma come abbiamo cercato di fare nei giorni di residenza con Push, stare insieme cercando di far parte di quello che si sta osservando, no? Quindi un po' questo. Abbiamo un po' di, tra virgolette, obiettivi o sogni, chiamiamoli come vogliamo, che sono sicuramente quello di collegare sempre più persone che cercano modelli alternativi tra di loro, cercare di realizzare nella città e fuori dalla città delle possibilità e dei progetti e metterli sempre più in pratica, tornando a quello, non mi ricordo, scusa, il nome, Leonardo, è interessante quello che dicevi a riguardo, perché giustamente tu dici non è tanto il luogo in sé che fa, non solo, ma più l'intento. E secondo me questo è un po' il fulcro, nel senso, noi siamo partiti da realtà extraurbane perché probabilmente la differenza qual è? Che fuori dalla città si ha molta più possibilità di plasmare lo spazio, cioè qui banalmente se tu vuoi fare una ricerca di autosufficienza alimentare, energetica, non puoi farlo, cioè fisicamente, però... Sì, sì, però appunto c'è tutta una sezione rivolta alla città. Noi per primi comunque lavoriamo oltre Caturbe, anche Exalge, siamo dentro la città, che ha un sacco di limiti e possibilità, quindi però è poi l'intento che fa la differenza. Noi cerchiamo di creare comunità anche qui in città, non è una lotta persa, se no non saremmo qui. Però insomma qui c'è tutto un gruppo, poi giustamente dici Gio, dentro Turbe, che studia la città, che è un po' un progetto che è nato all'interno di Turbe, nuovo, che porta avanti Laura, che adesso si è non la vedo, è lì, ci sta, lei sta facendo una ricerca e la stiamo aiutando sui quartieri di Milano, anche perché poi le domande, i problemi della città ci piace collegarli alle soluzioni della campagna. Cioè uno degli scopi è proprio superare la dicotomia rurale-urbano, o quantomeno, se non superare la dicotomia, provare a prendere delle buone pratiche da una parte e portarle nell'altra e viceversa. Un po' questo, poi non so se... No, io specifico che questa mia domanda viene oltre che da tutta una serie di riflessioni, esperienze di vita personali. Ho una formazione in architettura e sociologia urbana, quindi proprio all'atto pratico volevo sapere dove si potevano spulciare dei materiali, piuttosto che capire un attimo come si stava svolgendo la ricerca, però avete dato una bella panoramica. Ci sta che... Si ha il dottorato in Urbeur. No, però ho provato a farlo. Dopo condividiamo sicuramente contatti. Grazie. Per altri materiali. Sì, abbiamo raccolto un sacco di roba in realtà in due residenze, le presenteremo con Exalge prossimamente. Sì. Ciao, io sono Chiara e ho partecipato alla residenza ad Imperia, in Liguria. In realtà volevo semplicemente fare un intervento di rivendicazione e in qualche modo magari di mediazione o di pura onestà intellettuale, per riagganciarmi a un po' di interventi che ho sentito. Il primo è quello di Fede, nel senso che io mi sento profondamente e rivendico di essere un topo di città e ho quasi vissuto il disagio con quando questi disagiati mi hanno portato in montagna senza essere preparati a sufficienza per dormire una notte, cazzo, in una buca in montagna a 1400 metri con non so quanto meno gradi. E quindi volevo semplicemente fare un intervento che rivendicasse, no, che sai, sulla strada della rivoluzione, sulla strada della costruzione dell'alternativa, ci sono sicuramente delle notti che ti ghiacci le chiappe. No, e poi vorrei anche semplicemente rivendicare anche lo spazio in cui il rivoluzionario non si sente necessariamente a proprio agio, no? A mettere in discussione tutti quanti i propri paradigmi. Quindi semplicemente rivendicarlo, perché giustamente da topo di città ci sta che invece mi rendo conto che cerco poco la natura e di questo ci soffro, però che allo stesso tempo mi sento che non potrei forse abbandonare tutto quanto, ma infatti poi vedi a Busca voi fate qualcosa che è l'evento culturale, l'arte, la musica, il party, quel richiamo al party, al clubbing che ha, e quindi rivendicare questo, così come rivendicare, queste sono riflessioni, insomma, poi le donne sono forse un po' più sensibili sul tema famiglia, costruzione della famiglia, l'unità produttiva della coppia il metterlo in discussione. Volevo semplicemente rivendicare la difficoltà che a volte si ha nel pratico nel mettere in discussione, perché altrimenti il sistema se no non sarebbe così difficile e disagiante da battere, no? Perché in realtà ci sta che innanzitutto forse non siamo tutti quanti così d'accordo, forse c'è qualcuno di più predisposto a ghiacciarsi il culo in montagna. Ok, se mi passi così la parola vorrei assolutamente... chiarire a tutte le ascoltatrici e presentes che sono d'accordo con Chiara che la strada della rivoluzione non debba passare per un culo ghiacciato, anzi dovrebbe puntare a tenere il culo caldo a più persone possibili sulla faccia del pianeta e anche fuori dal pianeta, e che però è sempre anche essere ben pronti a farselo ghiacciare, ad avercelo ghiacciato, ecco. Poi non dovrebbe essere ghiacciato, ma se si ghiaccia. Nessuna Chiara è stata maltrattata durante... Nessuna Chiara è stata maltrattata... Esatto, e ci teniamo a sottolinearlo. E non vorremmo che lo fosse mai. E niente, ed è per questo che poi si raggancia anche a quello che diceva Jack in risposta. Si crede anche che si possa fare in un contesto urbano questa rivoluzione, cioè la città non va lasciata, non può continuare così e deve essere assolutamente cambiata, non togliendo il riscaldamento dalle case, diciamo, ma assolutamente deve assumere un aspetto diverso, una produttività diversa, un tempo diverso. C'è questa tematica che torna spesso quando si parla di abitare, che è come si vive il tempo, come ci si pongono gli obiettivi, come si affrontano, quali sono i mezzi di produzione, come vengono condivisi, se sono di tutti o se sono di qualcuno che li dà a qualcun altro per ricavarci valore, insomma, tornando al 1800 e al socialismo. E basta, Fede si è prenotato, quindi prossima volta un sacco a pelo in più. Tra l'altro grazie di averlo riportato. No, io volevo volevo dire che anzitutto poi volevo dire una cosa anche sui bandi, però io per esempio ultimamente faccio molta fatica a riconoscere questo concetto di comunità, cioè nel senso che a me sembra che per far fronte a anche in un contesto diciamo abitativo, che un po' per come l'abbiamo studiato noi con Turbe, non vuol dire necessariamente abitare una casa o abitare un luogo, ma più che altro diciamo poi viverlo anche prendendo alcune cose di cui parlava Jack. Però mi sembra che cioè, il concetto di comunità, poi questa è il mio punto di vista, il concetto di comunità sia un concetto un po' debole nel contesto in cui progetti tipo Exalge, Jugad vivono. Nel senso che poi alla fine il contesto in cui viviamo è un contesto estremamente, oltre che turbocapitalista, anche proprio, cioè, nel senso, violento, sionista, e più in generale e soprattutto anche questa città escludente. Quindi così anche magari un intervento che va un po' fuori diciamo da dall'ordine del giorno e da quello di cui stiamo parlando adesso, però diciamo che faccio fatica a riconoscermi in questo concetto di comunità. Invece in questo momento mi sembra che una cosa che funziona molto è quella di riuscire a stringere delle alleanze tra persone, organizzazioni, idee, avendo però una diciamo base comune con cui, da cui partire. cos'è intendi esattamente per comunità? Perché poi adesso hai detto base comune, quindi io, quella parola. Volevo anche in chiedere. Esatto, vabbè, finisco l'intervento, poi ci facciamo le domande. Anzi, mi piacerebbe sentire cosa ne pensi tu, cosa ne pensi tu, eccetera. Perché non, insomma, è un'assemblea, quindi. Invece sui bandi, cioè, per esempio, Intesa San Paolo è una delle istituzioni più tossiche che esistono in Italia, nel senso, io ci ho lavorato tra l'altro non con loro ma con Compagnia di San Paolo, e poi ho deciso di prendere altre strade, quindi anche lì secondo me è molto interessante cercare di capire come un'organizzazione tipo Exalge e anche Jugad, di cui però non faccio parte, quindi può finanziarsi oggi mantenendo quel, diciamo, sogno puro, o comunque, diciamo, perché poi non si può neanche essere puri proprio al 100%, però diciamo come fare a mantenere quel sogno, come fare a realizzare quel sogno, generare quell'impatto che è un po', e nello stesso tempo trovare le risorse per farlo. Poi vabbè, io ho abbastanza messo una pietra sopra la purezza, perché lavoro anche in, con fondi europei, francamente, cioè non è tanto, sì, cioè, sto discorso della purezza non funziona secondo me, però invece riuscire a creare delle alleanze tramite le quali riuscire a fare advocacy verso chi poi i soldi ce li ha, è un discorso che mi interessa, ecco, più in generale. Invece no, sull'Alpachino secondo me è una figata, andrebbe un attimo approfondito, e poi se c'è tempo magari posso oggi o un altro momento raccontare un po' come funzionava il modello che avevamo a Macao, e basta, ecco. Vado io. Ok, no, io solo volevo capire esatto meglio questo concetto di comunità, no, che avevi espresso, per il fatto che io tipo invece, cioè io frequento Push da una decina di mesi e in realtà ho sempre condotto una vita molto chiusa, cioè a livello sociale, ok? E invece frequentare questa realtà, oltre a darmi, cioè, un concreto riscontro di vedere come effettivamente è possibile poi una vita diversa, magari da quella urbana, eccetera, mi ha fatto vedere anche quale può essere la soddisfazione di portare avanti attività e pensieri o obiettivi, che alla fine secondo me è la base, il concetto di comunità, cioè un agglomerato di individui che si muovono in una direzione comune. Però forse esatto, partiamo da un concetto, cioè da una base diversa di quello che è comunità, non lo so. Volevo solo capire perché tu mi dicevi che era un concetto debole. Tu hai dato la parola debole affiancata al concetto di comunità e volevo capire, cioè, in che senso. No, però non facciamo. Ok, vabbè. Vabbè, no, no, no, perché siamo qui. Okay. No, dopo faccio un altro intervento. Va bene. Posso dire una cosa? No, no, vabbè, perché no. Cioè, volevo riprendere quello che dicevi tu rispetto alla debolezza del concetto di comunità, no? Secondo me il debole è totalmente relativo a cosa lo rapporti, no? Debole rispetto a cosa, no? Sì, lo so, naif ci sta, però nella sua semplicità il concetto di comunità forse lo rende forte, perché è meno complesso sotto certi punti di vista rispetto a un poi appunto non vuole essere una, cioè, è una risposta rispetto a quello che vedo io. Poi sono totalmente d'accordo sulle alleanze di cui parli, no? Che però partono da alleare qualcosa, no? Quindi che siano associazioni o comunità o qualcosa devono legare, no? E devono formarsi dei nuclei da connettere, no? E questi nuclei chiamiamoli comunità, è una parola poi che vuol dire un sacco di cose, che probabilmente ci rimanda a un sacco di cose nella testa, no? Quindi di conseguenza magari quello che noi stiamo cercando di trasmettere è molto diverso da quello che percepiamo rispetto a quello che è esistito negli anni passati. E, per quanto riguarda i bandi, sicuramente da qualche parte, cioè, sì, va benissimo l'alpachino di cui parlavamo, il nostro sogno, il cercare di tra virgolette creare una nostra moneta interna che dia un valore al tempo che uno dà al progetto, no? E quindi è semplicemente una specie di baratto di scambio con quello che è il tuo lavoro rispetto a quello che tu prendi dal progetto comune, no? E nel nostro sogno c'è quello magari di esportarlo a quello che sono magari le nostre alleanze, no? Quindi a dei progetti che vivono di qualcosa che è simile a quello che stiamo cercando di creare noi, no? Quindi magari creare una moneta, che passami il termine, unica all'interno di una rete di comunità, no? Proprio per cercare di banalizzare il concetto, in modo che magari non venga più percepito come debole, perché poi diventa una rete, no? di qualcuno che poi alla fine crea una massa essenzialmente, perché è accomunato anche da qualcosa che può essere una moneta, ma che sta a rappresentare un valore che sta dietro alla connessione che si crea tra un organismo che poi diventa molto più grande, no? Però sicuramente siamo all'interno di un sistema che non ci permette di escludere il soldo per poter andare avanti, quindi io prima ho detto Intesa San Paolo, siamo basati su quella roba lì e deve esistere, e anzi appunto dobbiamo interagire, cioè come dicevo prima la nostra forza è l'interazione con i sistemi urbani più che quelli locali di fianco a noi, no? Quindi assolutamente ci va questa sinergia qua, ma io stesso a livello personale e mentale ho bisogno di staccare da là e farmi 2 giorni a Torino e ritornare in città, cioè ci va un equilibrio comunque, no? Uno esiste grazie all'altro, secondo me anche l'individuo stesso ha bisogno secondo me di tutti e 2 i sistemi. E niente, questo. Io se posso fare un breve intervento, poi passo a livello linguistico sono molto interessato a questo concetto di comunità, perché secondo me poi credo, perché non sono un linguista, però il concetto di comunità può essere esteso all'infinito fino a diventare rete, alleanza tra individui che sono localmente raggruppati e globalmente sparsi. Quindi, appunto, secondo me è un concetto linguistico per cui la parola rete prevede un riferimento tecno-aziendale da internet, quindi dalla ragnatela, dai nodi, dalla teoria dei nodi in più matematico, piuttosto che l'alleanza, che è un gergo assolutamente militare, esatto, mentre il concetto di comunità è sicuramente estendibile e comunque può voler dire anche quello, ecco. No, io volevo rispondere giusto perché avevi effettivamente una domanda e portare quella che è la mia conoscenza. Di solito a livello quantomeno teorico, accademico, quello della comunità è un nodo e viene utilizzato come punto critico per tutto ciò che sono teorie di decentralizzazione della governance, il bottom up, la partecipazione, tutto quello che è il community based. Di solito le critiche vengono mosse perché si presuppone il concetto di comunità come unità omogenea, cosa che tendenzialmente non è, quindi tendenzialmente è una delle prime critiche, quindi non so se poi era qui in questo senso che la intendeva Fede, però di solito quando si dice appunto il concetto di comunità è debole, che è la prima critica che tendenzialmente viene mossa a tutti questi paradigmi, che siano quelli più spaziali, quindi sul rilocalizzare la governance, che sia in contesti magari più del sud del mondo, che è tutto ciò che è il community based, tutta la community based governance è appunto che si tende a presupporre la comunità come un'unità omogenea, cosa che però non rispetta effettivamente la realtà, e quindi c'è un'eccessiva semplificazione, un'eccessiva linearizzazione di comunità uguale partecipazione, uguale unità, uguale mancanza di conflitti, uguale capacità di democraticizzare, di riequilibrare il processo. Io nei miei studi, che però non sono ambientati nel nord del mondo ma nel sud del mondo, è un concetto che in realtà rivendico molto, che allo stesso tempo viene strumentalizzato molto, nel senso che sono tanti paradigmi di community based che sono un po' utilizzati anche per fare una sorta di washing, cioè tipo l'ONG, no, che vuole fare il progetto e che allora si rifà a tutto questo filone appunto della partecipazione diretta, a volte sono un po' viene un po' strumentalizzato per di base uno stato delle cose, che è quello della progettazione, della cooperazione internazionale, dei fondi che sono internazionali, l'ONG che decide tutto, però magari ha creato un ordine, ha creato un organo assembleare. Io però ripeto, è un concetto che rivendico tanto a livello di studio quanto di pensiero, perché secondo me invece comunque è una dimensione molto ancestrale dell'uomo, solo che è molto ostacolata nella vita che viviamo noi, e quindi fai fatica, cioè sicuramente noi oggi non viviamo in comunità, nel contesto di oggi di Milano sicuramente la comunità non la respiri, e secondo me è molto sotto attacco sia la possibilità di viverla, quindi di respirarla, di percepirla e quindi anche di pensare in termini comunitari, però secondo me è appunto una dimensione ancestrale che si può assolutamente recuperare, cioè al netto di riconosco tutti gli attacchi esterni alla possibilità di fare comunità, ma mi trovo d'accordo che forse alleanza, fronte comune possano essere anche degli ottimi sinonimi in questo caso, e poi personalmente ne faccio anche un discorso culturale, nel senso che se hai esperienza di altre società del mondo, è chiaro che nella società, nella cultura individualistica, è difficile pensare in termini comunitari e immaginare che possa esistere un concetto di comunità forte che prevalga. Per fortuna non esistono solo società individualistiche nel mondo, nel senso, cioè esistono culture e società collettive, collettivistiche, basate su, cioè in cui la cooperazione, cioè i concetti di cooperazione sono più importanti, o addirittura le culture, le ontologie indigene, per esempio, nel senso che il pensiero occidentale si basa sulla divisione e sulla separazione, e questa separazione è alla base del pensiero logico e non può che riprodursi infinitamente in tutte le strutture e le sovrastrutture, e infatti pensiero logico basato sul dualismo e la divisione, e infatti ci siamo evoluti in una società individualista. Ci sono per fortuna altre società umane che hanno alla base per esempio visioni unitarie, hanno una visione di unità in cui appunto non c'è un concetto di separazione ma c'è un concetto di unità, e secondo me in quei contesti è molto più facile immaginare un concetto di comunità più forte, pensare di svilupparsi in termini comunitari. Cioè quello che volevo dire è che essenzialmente credo, poi per quello che ho frequentato Push, quello che ne traggo è che l'obiettivo è, come dicevi tu, quello, cioè ricongiungersi a questa esigenza proprio, no? Umana, che non, in un ambiente urbano come questo io non sono mai trovato, ma anche se ho provato a cercarla, cioè mi ha sempre messo a disagio, no? Come se questa esigenza poi trovasse sempre un ostacolo, che invece all'osservatorio Push non c'è, anzi, quindi sì, credo siamo d'accordo a questo punto. Grazie per la chiarificazione. Microfono, così la radio ci ascolta. No, quasi tutte le serate dei post cena a Busca sono state chiacchiere dilungate sul tema delle istituzioni, delle burocrazie, quindi del potere, il potere verso l'esterno o dall'esterno e poi il potere all'interno, quindi l'organizzazione all'interno del gruppo, insomma è un mondo, no? Parlare di comunità, apriamo delle sfondiamo dei portoni aperti e riparliamone, continuiamo a parlarne. Se qualcuno ha qualcosa ancora da aggiungere, benissimo. Sì. No, poi a un certo punto torniamo a danzare, ballare. No, io giusto a Chiosa, dal punto di vista, diciamo, del fare una distinzione tra modello e prodotto, che era un po' la mia domanda, no? Un'osservazione corretta, adesso non è presente, mi sfugge il nome, che poi diventa un prodotto, grazie. E ritorno anche, mi allaccio ai bandi, così faccio questa riflessione veloce. I bandi europei richiedono una replicabilità in direzione di prodotto, quindi no? Una progettualità diciamo ricorrente e standardizzata. Quello che intendevo io dal punto di vista, diciamo, del modello, no? Anche una replicabilità, che secondo me è anche un po' il senso degli incontri, poi di condivisione di una rete, che anche per tornare al sionismo e dire tecnico aziendale, la rete è sulla kefia, cioè una rete da pesca. No, adesso ho divagato un po' troppo, però per tornare ai bandi, no? Quello che fate voi, penso che modello si differenzi da prodotto in questo senso, cioè il modello non è diciamo un modello che crea dei prodotti interpretativi standardizzati, ma è un modello di interpretazione, quindi un approccio, e quindi il modello di replicabilità è come si sta insieme e quindi come poi interpretiamo lo spazio, ed essendo spazio diverso, come è stato già detto, avrà poi, diciamo, delle conseguenze differenti. Però credo che il modello, diciamo, interpretativo possa essere replicato. Non è obbligatorio farlo, quindi ci saranno dei modelli differenti, anche il tuo intervento, no? Modelli interpretativi radicalmente differenti, perché uno unitario e uno, diciamo, dualistico. Però, cioè, voi proponete un'unitarietà, diciamo, in un contesto comunitario. No, sì, diciamo che un po' quello che ho detto prima, sicuramente si propone una base secondo il quale poi ci può essere uno sviluppo di unitarietà. Ma per quanto semplice come sistema, quello della comunità rispetto a un sistema magari più complesso, banalmente più persone, varia in base alle persone anche che ci sono all'interno, però sicuramente serve uno schema, servono delle regole, servono delle responsabilità, quelle sono innegabili. Poi tutto il resto è legato agli spazi e a tutto quello che viene ancora oltre. Però ripeto, noi è un anno che studiamo, che proviamo, che ci interroghiamo, che viviamo questa esperienza in modo da riuscire a capire qual è il modo migliore per approcciarla. Cioè non ci sentiamo di dire di essere arrivati da qualche parte. No, banalmente su questa cosa dei modelli, io penso che siamo tutti d'accordo, poi quando Joe ha detto prodotto è un'esagerazione, credo, però anzi, come giustamente forse hai sottolineato tu adesso, cioè Turbe ha come uno degli obiettivi questo, cioè più che modelli io li chiamo buone pratiche, però chiamiamoli come vogliamo, però indagare nelle milioni di realtà e possibili alternative tanti piccoli modelli che funzionano e fare in modo che questi modelli girino, no? Perché magari una realtà ha un buon modello su una moneta interna, un'altra su un'organizzazione di lavoro. Quindi sicuramente lo sviluppo di buone pratiche è, credo, al centro di questo tipo di progetti. Sì, quello che è da condividere. Intendevo un po' anche che non è il fare le cose con lo stampino, no? Quindi ovviamente abbiamo questa attitudine probabilmente in questa sala di non farlo, o perché l'importante alla fine non è il modello tanto quanto ancora prima forse un principio, che è quello della critica, che è quello dell'adattamento. è quello di poter mettere in discussione il modello, no? Che è un po' quello su cui si basa sia questo posto, questo luogo, che penso anche Busca. Ci sono quattro nomi che io ho in mente, ne scelgo uno diverso ogni volta. È questo, è poter criticare il modello, ed è una cosa che in questa società, che sia urbana o rurale, in questo momento, questa società, diciamo, quella predominante dal punto di vista numerico, dal punto di vista quantitativo, che ci circonda, in cui siamo immersi, anche se cerchiamo di costruire qualcosa di diverso, è proprio questo, non puoi criticarla, non puoi mettere in discussione le dinamiche di potere, non puoi mettere in discussione perché qualcuno ti impone qualcosa, tu devi farlo, devi comportarti in quel modo, devi seguire quella dinamica perché ci sei dentro e ti viene imposta e non puoi proporla diversamente. Magari puoi, devi avere però acquisire quel certo grado di potere tu stesso, per cui poi magari lo stai privando o vuoi privarlo a qualcun altro, il potere di criticare e mettere in discussione. Volevo solo specificare che secondo me voi avete uno spazio incredibile, nel senso che senza ombra di dubbio il posto in cui siete è un posto, parte diciamo la sua storia, ma poi più in generale è proprio bello, cioè nel senso... quindi anche tante responsabilità sicuramente. E quindi questo volevo premetterlo, perché comunque è difficile trovarlo, ecco. Però quindi e anche diciamo gestirlo, curarlo è un lavoro immenso, quindi questo volevo premetterlo per dire che io non volevo è proprio che secondo me è debole il concetto, non tanto della comunità di Jugad, ma il fatto che cioè, al di fuori di Jugad c'è tutto un mondo che diciamo che non sa neanche cos'è la comunità, la dico semplice. E invece poi l'ultimo punto sui bandi, cioè nel senso che è vero che soprattutto in scrittura uno deve seguire, oltre che diciamo i modelli, anche i template che arrivano, però io sto anche vedendo che tutti i monitoraggi stanno diventando sempre più laschi, è sempre più aperti, anche diciamo non c'è più una rendicontazione finanziaria a livello europeo, o comunque diciamo soprattutto alcune logiche di bando tipo lump sum, piuttosto che proprio stanno aprendo i monitoraggi, a meno che proprio non fai dei grandi cambiamenti, allora lì ti fanno degli audit, però quindi questo a me sembra che in parte sia una possibilità per poi giocarsela una volta vinti i soldi, cioè nel senso, non lo so, poi il mio sogno potrebbe essere scrivere un bando insieme a Jugad e poi costruire la casa del drago con i soldi europei, cioè nel senso del lago, per dire, si può fare, non lo so, però ecco, oppure, cioè, io vedo sicuro, soprattutto quando li si scrive, bisogna essere lì belli annoiati dalla scrittura, però mi sembra che soprattutto se poi i partenariati e i consorzi sono uniti e pronti, diciamo poi... E c'è diciamo comunità negli intenti delle persone che li compongono, e quindi anche copertura, mi sembra che poi lì in realtà un po' di margine per non fare tutto quello che si è scritto poi alla fine c'è, quindi se volete fare la casa del drago Elio, no, non so come si chiama il drago, no, posso per provare di dire finalmente un po' più ottimista per... No, io se siamo in chiusura mi sento di fare anche proprio un ringraziamento a Push, che è una realtà che frequento anch'io da poco meno di un anno, e però cioè, sono spesso sulla Busca, ma vivo a Milano, anch'io topo di città a tutti gli effetti, e, però cioè, Busca ha il potere di quei luoghi dove, come dicevamo prima, tutte le cose succedono nello stesso posto, cioè il vivere, il condividere, il fare festa. E ringraziamento proprio per il fatto che io ogni volta che vengo, come dicevi tu prima Luca, mi porto a casa qualcosa, cioè sia nel quotidiano, proprio nelle buone pratiche da replicare nel quotidiano per vivermi più la comunità, anche poi in tutti quei progetti molto milanesi di cui faccio parte e nei quali sento questa sensazione, cioè questa sensazione che sento a Busca invece non la trovo, ma riesco in qualche modo tutte le volte a portarmi qualcosa a casa e replicarlo, e per questo grazie. Grazie a te. Ci sono altri interventi, domande, dubbi, perplessità? Fantastico, allora passo la parola al presidente per chiudere questa No, ma chiudila pure tu, facciamo un applauso collettivo all'Osservatorio Push. Grazie. Put your hands up.